dalla gente, per la gente, ok Don? Sì! Rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo, il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per... Per i miei fra, sempre con l'impasto in mano. Intendo sempre tipo che muoiono con l'impasto in mano. Chi dice zio 20 volte al minuto. Inguaiati, tatuati di bruto. Chi entra nel posto a scrocco e fa più bordello dei gogol. Non sa chi cazzo sei perché ascolta solo i dogo. Fighetti gucciati, promossi bocciati. I pusher, gli skater, i seri e i bruciati. Per tutte quelle tipe che c'hanno il loro stile. Non saranno le veline ma per me sono più fighe. Gli amici sulla bici o sulla Jeep, le bici stile in G, chi aspetta la sentenza aspetta il Jeep. Dalla gente per la gente, a chi non rispetta niente, a chi è senza rispetto per la gente. Al mio fra che sta in tuta sulla panchina, si fa tutta la pallina, fa la cotoletta tutta la mattina, zio. A chi ha i piedi di Ronaldo ma non va alla scuola calcio, e ha imparato il doppio passo e la rabona sull'asfalto. Chi è sotto per le fighe, chi è sotto per le righe, chi ha gli occhi rossi fatti e chi c'ha gli occhi della tigre. Per chi si sente una bomba gli sta scadendo il timer. A chi c'ha il pit, il dogo e il Rottweiler. A chi era andato a Baggio per non fare la furba. A chi è senza maglietta col megafono in curva. Rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo. Il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per... Dalla gente, per la gente, dalla gente, per la gente. Dalla gente, per la gente, dalla gente, per la gente. Per chi ha tre lauree o tre precedenti, piega la visiera a becco, sorride a 24 denti, vincenti perdenti. Per chi è senza biglietto, i writer, i rocker e quelli della techno. Per chi si è fatto da solo, per chi si è fatto e basta. Chi si riempie la nasca, chi si riempie la tasca. Gli scalmanati, chi chiave si fa i filmati. Chi schifa la PS e chi schifa il GF. Non suono dentro un gruppo fatto a tavolino, tutto fatto a un tavolino. Non lo faccio per gli ipocriti e i buonisti, fuck Muccino. VIP me la sbatto e mi pompano i famosi, ma dei VIP me ne sbatto. A chi è Santa Margherita, San Vensano, San Moritz. A chi è San Vittore scrive, a chi lo sta aspettando fuori. A chi studia, a chi spassa, chi sputa, a chi smassa. A chi legge mille libri e chi legge solo la cazza. A quelle che mi seguono nel letto, le gruppi dei gruppi. E a quelli che si svegliano quando io vado a letto. A chi si fa di dogo come un tossico con l'oppio. Eppure a chi ci odia perché lui ci ascolta al doppio. A quelli che la notte sono in giro e che si sfondano. A chi bestemmia perché le preghiere non le ascoltano. A chi si sveglia e vede questa merda tutto intorno, sì. E studia tutto il giorno, sì. Per avere tutto un giorno, oh. Rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo, rompiti il collo. Il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per la gente, il dogo è per... Dalla gente, per la gente, dalla gente, per la gente.